Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Marianna Stefanucci. A Santiago de Compostela, la città spagnola famosa per il suo cammino religioso, piove spessissimo. Obbligatorio per i pellegrini e i turisti dotarsi di ombrello. La Galizia, per colpa del vento dell'Atlantico che si abbatte sulle montagne circostanti, ha infatti un clima che ricorda quello dell'Irlanda. Siamo ad agosto, ma il tempaccio coglie di sorpresa anche una troupe cinematografica arrivata da pochi giorni per girare un nuovo film dal budget importante. 10 milioni di euro. Si mormora per le strade di Santiago. Il regista, un uomo sulla sessantina, capelli e barba bianca, naso buffo e corporatura di chi non disdegna vino e cibo, non sembra per nulla spazientito dall'inconveniente meteorologico. Anzi, ne approfitta per scherzare con gli attori davanti a quelle roulotte che per 11 settimane saranno anche le loro case. Marisa Paredes, una delle protagoniste, viene assalita dai giornalisti che sperano di ottenere qualche anticipazione sulla trama. I suoi personaggi vivono, sono sempre speciali, in equilibrio tra improbabile e impossibile. Quando mi ha chiamata, dopo tutti i film già fatti insieme, non ci ho dovuto pensare neanche un attimo. Ho detto subito di sì. La raccomandazione rivolta a tutti i membri del cast è stata fin dall'inizio rigidissima. Del film non si può parlare. Ma il protagonista maschile, un cinquantenne fascinoso dai tratti mediterranei, non è riuscito a contenere l'entusiasmo per il nuovo progetto e ospite in Russia al San Pietroburgo Film Festival si è lasciato scappare qualcosa. La verità è che stavo molto contento. Sono molto contento del mio ruolo. Il film sarà spaventoso, un horror senza urla. È difficile darne una definizione. Però si avvicina molto al genere horror, un tipo di film che lui non ha mai girato prima. È un film durissimo e il mio personaggio sarà brutale. Ma la cosa più importante è che dopo 20 anni finalmente ritorniamo a lavorare insieme. Il regista, suo amico di vecchia data, l'ha scusato. Ha capito che lo scivolone è stato dettato dall'impazienza di iniziare a girare e che nonostante gli avessero imposto il segreto, non sarebbe riuscito a tacere più a lungo. In fondo, per fare questo film, ha rinunciato ad alcuni progetti importanti e soprattutto ha rimandato il suo ritorno a Broadway con il musical di grande successo Nine, basato su 8 e mezzo di Fellini. L'immagine di loro due che passeggiano insieme per le strade di Santiago, uno in camicia azzurra e jeans neri, l'altro in polo bianca e pantaloni militari, era attesa da anni, in Spagna e nel mondo. Ma perché così tanta attenzione su questi due uomini? Semplice. Perché questo regista e questo attore hanno dato vita al grande rinascimento del cinema spagnolo, fino a farlo volare a Hollywood. Oggi, a Destini Incrociati, vi raccontiamo l'incontro tra Pedro Almodóvar e Antonio Banderas. Pedro Almodóvar e Antonio Banderas. Tinta, la piel que habito, es el título de la nueva película que Pedro Almodóvar ha comenzado a rodar hoy, bajo la lluvia, en Santiago de Compostela. Es una cosa rara, es un sentimiento raro eso de convertirte... È una cosa strana, è esattamente come quando ci siamo lasciati. Dal momento in cui Antonio è entrato nel mio ufficio, è stato come se avessimo finito di girare Legami la sera prima. L'ho chiamato con me perché è perfetto per il ruolo. Il personaggio è un vero sociopatico e Antonio a 50 anni saprà calarsi perfettamente nei suoi panni. Lo voglio con me anche perché questo è un tipo di film che non ho mai girato prima e con lui so di andare sul sicuro. Si tienes un hondo penar, piensa a me. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. besami. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí. La piel che abito, la pelle in cui vivo, racconta la storia di un chirurgo plastico che si vendica dell'uomo che ha violentato sua figlia. È un film duro che si annuncia già come il primo horror di Almodóvar. La sceneggiatura, ispirata al romanzo di Thierry Jonquet, Tarantola, è stata riscritta ben 9 volte dal regista, ormai ansioso di portare a termine il lavoro. Nella trama non c'è spazio per la sua amica e musa Penélope Cruz, ma di certo i due torneranno presto a lavorare insieme. Io credo che sarebbe stata fantastica, ma mentre scrivevo il film e la storia si sviluppava, non trovavo ruoli per lei. Ma non è un problema, perché la chiamerò per un altro film. Ho un sacco di storie che voglio girare. Al momento nel mio cassetto ho 4 sceneggiature in fase di sviluppo. Al di là del gossip e della curiosità su questo 18° film di Almodóvar, la grande notizia è il ritorno con lui di Antonio Banderas. I due, diversissimi in tutto, dal fisico al temperamento, sono stati lontani per 20 anni, durante i quali ognuno ha fatto il suo percorso. Eppure il destino li ha legati a doppio filo per tutta la vita. Pedro Almodóvar Caballero nasce nel 1951 in un piccolo paesino della Mancia, la regione dei mulini a vento che Don Chisciotte, nel suo delirio, scambiava per giganti dalle braccia rotanti. E proprio questo vento di levante, che rende folli le persone, è uno dei grandi ricordi della sua infanzia. Pedro se lo sentirà sulla pelle anche quando si sposterà in Extremadura per studiare presso i francescani e i salesiani. Le sue origini sono profondamente legate alla terra e la sua è una famiglia molto umile. Il papà, mulattiere, trasporta cibo e vino tra un villaggio e l'altro con il suo asino, mentre la mamma lavora 20 ore al giorno, dividendosi tra la campagna e le faccende di casa. Come tutte le donne che l'hanno cresciuto, per Pedro è una figura fondamentale. Io sono cresciuto in una società matriarcale. Per me le più forti erano le donne, che riuscivano a mandare avanti tutto. Andavano a lavorare in campagna e governavano la casa. Erano loro a prendere le decisioni. Io credo che questa mia infanzia tra le donne abbia influenzato moltissimo la mia visione e quindi il mio cinema, perché ho sempre visto donne molto forti. A 16 anni, Pedro comincia ad avvertire la necessità di scappare da un futuro già scritto. Non si sente schiacciato solo dalla provincia, ma soprattutto da un'educazione religiosa chiusa e moralista, che mai potrebbe tollerare la sua omosessualità sempre più esplicita e il suo spirito anarchico. Per questo motivo, un po' per gioco e un po' perché ci crede, decide di approfondire quella che finora è stata solo una curiosità senza scopo e si trasferisce a Madrid per frequentare la Scuola Nazionale di Cinema. Ma il sogno, per lui e centinaia di altri giovani spagnoli, viene continuamente spezzato. Españoles, en esta noche familiar entre todas, entrañable como ninguna, en la que se busca el calor de los seres queridos y cada uno se apiña en un impulso de ternura mutua, de alegría y de esperanza, habéis de permitirme que por unos cortos minutos penetre en la intimidad de vuestros hogares para agradeceros de todo corazón el gesto colectivo con el que habéis refrendado la ley orgánica del Estado, abriendo así una nueva y ancha vía para el futuro de España. Soy infeliz. Francisco Franco, il generalissimo, governa la Spagna da ormai 28 anni, vale a dire dal 1939, con la fine della sanguinosissima guerra civile. La sua dittatura militare proibisce la libera circolazione delle opinioni e la censura tocca ogni forma di espressione, dalla politica alla letteratura, dalla musica al cinema. Come in tutti i totalitarismi, è importante affiancare a una fertile propaganda una sostanziosa repressione. I mezzi di comunicazione sono asserviti al regime e in tutto il paese si respira un'aria di austerità controllata quotidianamente dall'esercito. La scuola di cinema viene chiusa. così come tutte le associazioni culturali, e gli intellettuali riescono a incontrarsi solo di nascosto. Pedro, dopo che ha provato con guadagni miseri a fare l'ambulante, incomincia a lavorare come tecnico per la compagnia dei telefoni. All'inizio pensa di restarci per poco tempo, finché non troverà di meglio, ma poi si convince che avere un posto fisso, anche se non fa per lui, è un compromesso che almeno gli permette di dedicarsi alle sue passioni liberamente, senza la frenesia di chi con quelle passioni si vuole anche mantenere. Avrei potuto mollare, e invece sono stato lì per ben 12 anni. Lavorando per loro ho capito una cosa fondamentale. Il telefono e la segreteria telefonica aiutano i bugiardi. Se 12 anni sono tanti, nella vita di un uomo, possono addirittura rappresentare un passaggio epocale per un paese. Con la morte di Franco, nel 1975, si apre per la Spagna il periodo della transizione verso la democrazia. Un cammino incerto ma entusiasmante, che la porterà a essere la nazione vitale e moderna che tutti conosciamo. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay. Cantaba. Con la fine della dittatura franchista, il fermento culturale vibra in tutta la Spagna. Mentre Pedro Almodóvar vive già da molti anni nella capitale, Madrid si riempie di giovani provenienti da tutto il paese, in cerca di fortuna e soprattutto di libertà. Tra questi c'è anche Antonio Banderas, l'uomo che oggi è considerato la quintessenza del maschio latino. Tratti mediterranei, capelli nero corvino, sguardo magnetico e sex appeal che ha fatto sognare migliaia di donne sparse per il globo. Ma Hollywood all'inizio per lui era semplicemente un mondo lontanissimo. Una cosa del genere non me la sarei mai immaginata. Non avrei potuto immaginare Hollywood, e tantomeno quello che mi è successo l'anno scorso con Broadway. Stare su un palco negli Stati Uniti, live, recitare in inglese per 2 ore e mezzo cantando 14 canzoni. Tutto questo è qualcosa che non mi sarei mai immaginato. Ma la vita dà molte sorprese, sia positive che negative. Io credo moltissimo nelle possibilità che la vita ti può dare ogni giorno, i cambiamenti assoluti. Nato a Malaga, Andalusia, nel 1960, cresce con papà José Domínguez, poliziotto, mamma Ana Banderas, insegnante, e suo fratello Francisco, più giovane di lui. Quella che adesso è la sesta città di Spagna, con oltre 500.000 di abitanti, ricca di turisti tutto l'anno, allora era in seria difficoltà economica, tanto che la sua popolazione tendeva a emigrare verso i paesi europei più industrializzati, come la Germania, la Svizzera, il Belgio, la Francia. Vivere a Malaga per il piccolo Antonio significa molte cose. Avere il sole tutto l'anno, incontrare agli angoli delle strade i suonatori di flamenco come colonna sonora, aspettare il mese d'agosto per la grande fiesta del verano, la festa d'estate, dove per tradizione si riprendono gli abiti del folklore gitano, e celebrare la Semana Santa di Pasqua, con processioni mistiche dal sapore antico. È uno dei miei ricordi più forti. Gli uomini che trasportavano Cristo ricoperto d'oro facendosi largo tra la folla, le donne che si facevano il segno della croce, e poi la scelta della ragazza più bella della città. La religione e la festa sono le mie origini. Me le porterò dentro per sempre. Il motore di tutto quello che faccio viene da quel ragazzino di Malaga. Antonio è un calciatore promettente e il suo allenatore spinge per farlo entrare nelle file del Real Madrid. Domeniche passate a giocare tra il tifo degli spalti, gol che nello spogliatoio ti fanno diventare un eroe, fisico forgiato dall'esercizio quotidiano. Per un po' ci crede. Pensa che questa avventura giovanile possa davvero diventare una carriera. Ma a 14 anni, un piede rotto spezza l'incantesimo, gettando Antonio nella confusione sul futuro. Qualche amico però frequenta un corso di recitazione e Antonio decide di unirsi. Con il gruppo di giorno recitano per strada all'insegna del libro Happening, racimolando qualche soldo per le spese comuni. E la sera si ritrovano per guardare vecchi film. Ad Antonio piace soprattutto Orson Welles, L'orgoglio di Emerson, L'infernale Kinlan, ma è soprattutto Quarto potere a essere per lui un'illuminazione. In questo edificio cadente, che ospitava un quotidiano alla vigilia del fallimento, ebbe inizio l'impero di Kane, che all'apogeo del suo fulgore ha avuto in suo potere 37 giornali, 2 sindacati, numerose stazioni radio, un impero che dominava un impero. E inoltre catene di negozi, cartiere, case d'affitto, industrie, foreste, linee di navigazione, un impero che per 50 anni si impinguò del rivolo incessante di ricchezza scaturito da una miniera d'oro terza per importanza nel mondo. Il film racconta attraverso raffinati flashback la vita del magnate della stampa Charles Foster Kane, che in battute essenziali come «Io sono un'autorità su come far pensare la gente» sintetizza il controllo delle idee che lo stesso Franco ha messo in pratica per anni con metodi militari. Ma non è solo questo a colpirlo. Welles, infatti, rompe la logica del cinema classico basato sugli studios e inaugura la centralità dell'autore come figura capace di personalizzare i suoi lavori secondo la sua sensibilità. Da questo momento, Antonio Banderas sogna di essere guidato da un regista in grado di farlo crescere come uomo e come attore. Nel frattempo è meticoloso e lavora sodo. Studia i classici e si diverte con la sperimentazione. Si diploma alla scuola d'arte e vince persino un prestigioso concorso d'arte drammatica indetto dal Teatro Nazionale, che comporta un trasferimento a Madrid. La sua filosofia di vita è cogliere ogni occasione come un cambio di destino. E Antonio non ci pensa due volte prima di dire di sì. Io continuo a pensare che la vita si costruisce nel momento in cui mi alzo ogni mattina. Non si può mai addormentarsi con una certezza. Bisogna semplicemente pensare che ti sei meritato quello che ti sta succedendo e che niente dura per sempre. Io lavoro duro oggi, come il primo giorno in cui non ero nessuno. Ogni giorno è un giorno nuovo. L'entusiasmo non gli manca, ma i soldi sì. E a cavallo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 non è facile sopravvivere in una metropoli eccitante ma decisamente costosa. Di certo col teatro non si mangia e tantomeno è facile trovare una parte al cinema. La concorrenza è spietata e Banderas, come il 90% degli attori in circolazione, incomincia a lavorare come cameriere. A questo alterna qualche servizio come modello, visto che il fisico glielo permette. Non è esattamente quello che si aspettava, ma c'è sempre qualcosa dietro l'angolo a Madrid, la città che non dorme mai. La coctelera. asesinos mientras tanto no paran de molestar. A destini incrociati siamo a cavallo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, in una Madrid che si è liberata da poco dal lunghissimo e austero regime di Franco e che vuole sfoggiare tutta la sua vitalità repressa. Pedro Almodóvar e Antonio Banderas non si sono ancora incontrati e vivono parallelamente la stessa realtà, le magiche notti della mitica Movida. Mentre Banderas fa il modello e il cameriere, Almodóvar si decide a lasciare il lavoro alla compagnia telefonica. Gira i suoi primi cortometraggi, scrive per alcune riviste e soprattutto canta, in coppia con il travestito McNamara, canzoni punk rock satiriche e ad alto contenuto trasgressivo. I due si presentano sul palco in calze a rete, trucco esagerato, capelli cotonati e tacchi a spillo, animando le serate con il sottile piacere del politicamente scorretto. Era un nuovo modo di concepire la vita. Noi usavamo droga, sesso, feste, feste, tante feste, e lo facevamo per dimenticarci la Spagna puritana in cui tutto era proibito. Noi volevamo essere liberi, volevamo esagerare. Molti spagnoli non sono pronti a questo cambiamento. La prima volta che McNamara, vestito da ballerina di flamenco, si presenta insieme ad Alaska, nome d'arte di Olvido Gara, a un festival heavy in Piazza de las Ventas, riceve solo insulti e bottiglie volanti contro il palco. Eppure, dall'altra parte del mondo, Andy Warhol lo sprona a continuare al grido di «You are a star». Movida è un termine che è diventato per antonomasia sinonimo di divertimento notturno. Quando si dice di una città che la sua movida è molto intensa, significa che ci sono molti locali, feste, movimento. Comunque, niente di paragonabile a quello che succede nella Madrid finalmente libera di esprimersi. I giovani adesso possono uscire e riempire le strade e le piazze. Sboccia la cultura alternativa. L'apparizione di etichette discografiche indipendenti permette la diffusione di musica diversa rispetto a quella delle multinazionali del disco. Tutto ha il sapore della novità in questo risorgimento economico e sociale nel quale la Spagna ritrova la sua identità colorata e si veste con Agatha Ruiz de la Prada. E mentre Banderas si gode le notti, le bevute e il sesso quando stacca dal lavoro, Almodóvar è il re della festa, il vero simbolo della movida madrilena. Dopo aver girato diversi cortometraggi scandalosi da proiettare in casa per animare le serate degli amici, racconta il suo mondo caotico, intriso di pop e kitsch anni Ottanta, nel suo primo lungometraggio, girato in 16 mm, e poi gonfiato a 35. Pepi, Luci, Boom e le altre ragazze del mucchio. A ver, atiéndeme. Meto la aguja. Sí. Echo la hebra. Sí. Bien. Saco el punto. Ya está. No, así no. ¿Cómo que así no? Pues no, porque mira, te has dado cuenta que antes estabas haciendo el punto del derecho y ahora te has equivocado y estás haciendo ¿y eso qué más da? ¿Y eso qué más da si eso es una muestra? O sea, yo estoy aprendiendo ya a hacer el punto del derecho. Pero ¿no? Si ya lo sabes, o sea, hacer la hebra hecha. Y además no me lo tocas porque no, me lo estás blanco. Pues no. Además, fíjate el pollo que pesa. Pues no. Es que me estás boicoteando mi punto. No, no, no, no, pero así no te estás equivocando, ¿eh? Vaya una profesora. Nada, ni profesora ni nada, porque si yo te digo las cosas y tú no me haces. Il film è il ritratto di due ragazze che vogliono crescere in modo disinibito, rifiutando i vecchi valori come la verginità. Pepi, interpretata da Carmen Maura, grande amica di Almodóvar fin dal suo arrivo a Madrid e futura protagonista di molte sue pellicole, vorrebbe venderla per 60.000 pesetas. Il regista Macego è ancora troppo anarchico, ribelle, per usare l'accuratezza formale a cui arriverà. Ma in Pepi, Luci, Boom ci sono le tracce del suo universo surreale e dissacrante, popolato da creature colorate e trasgressive. In Pepi, Luci, Boom, Pedro Almodóvar evoca perfettamente lo spirito libertino e ribelle della movida post-franchista degli anni Ottanta. Lo stesso spirito che sta portando sul palco in coppia con il travestito McNamara nel loro dissacrante duo punk rock. Tutti sognavano di essere cantanti di rock and roll. Già soltanto l'idea di salire su un palco in quel modo era sufficientemente attraente per provarci. Io mi sono lasciato trascinare dalle circostanze e alla fine credo di poter dire che quella è stata l'epoca più divertente della mia vita. Anche Antonio Banderas, attore in cerca di qualche ruolo e provvisoriamente cameriere, vive la follia di queste notti madrilene. Nel frattempo, continua a recitare nella compagnia teatrale Centro Drammatico Nacional, con la speranza prima o poi di fare del cinema. Il personaggio giusto per me prima o poi sarebbe arrivato. Io sapevo che era nell'aria. C'era troppa vitalità a Madrid per non farcela. C'era voglia di esprimersi, di cambiare un modo di pensare durato per troppo tempo. Io ero una bomba orologeria. A innescare la scintilla è proprio Almodóvar, che una sera lo nota durante il rito tutto spagnolo del botellón. Il botellón si pratica in luoghi pubblici, quali strade, piazze, parchi delle città, dove arrivano a riunirsi migliaia di persone ogni fine settimana. Si portano da casa bevande alcoliche, bicchieri, ghiaccio, per preparare cocktail artigianali, con l'obiettivo di bere in compagnia, suonare, ballare e chiacchierare senza la necessità di spendere denaro in locali, pub o discoteche. E proprio a una di queste feste, Pedro e Antonio scoprono di avere un sogno comune sulla rinascita del cinema spagnolo. Entrambi vorrebbero dare vita a un miracolo di libertà espressiva sia sul piano dei contenuti che su quello del linguaggio. Vino un poco l'opera a circostanze, perché... Per me all'inizio il cinema era solo un gioco, ma piano piano ho scoperto che era esattamente quello che volevo fare. Antonio mi ha aiutato moltissimo a trovare questa consapevolezza e mi ha aiutato a capire che l'attore, anche se non volontariamente, scrive con te una sceneggiatura scena dopo scena. Giorno dopo giorno, lavorando insieme, Almodóvar e Banderas danno vita a un nuovo sguardo sulla Spagna, sul cinema e sulla vita. Il giovane di Malaga ha l'aspetto del cicco latino, ma non è questo che lo rende attraente agli occhi di Pedro. Semmai è la sua ingenuità a tratti morbosa, il suo essere molto sensuale, ma un poco rozzo. Dal canto suo, Pedro, per Antonio, non è semplicemente un regista, è un amico, un fratello, un compagno, un padre, una madre, tutto. Lo guida per farlo crescere come professionista e come uomo fino a renderlo una vera e propria icona. Nasce Labirinto di passioni, la storia intricata di un omosessuale e una ninfomane che scopriranno di amarsi fin da quando erano bambini. Vamos allá. Acción. Con el doctor conseguirá tener un hijo propio. Se lo digo por experiencia. Yo también estaba desahuciada. Bueno, pero usted es un poquito más joven que yo. Da igual. Era totalmente sterile e además tengo una matriz di una niña di 6 anni. Il film è tutto sommato sgangherato e acerbo, ma già brulicante di quell'estetica così personale, che farà diventare Almodóvar, come Fellini prima di lui, un aggettivo: almodovariano. Sui Cahiers du Cinéma, la storica rivista di critica cinematografica nata in Francia con la Nouvelle Vague, a proposito di Labirinto di passioni, si leggono queste parole. Questo film è una commedia leggera, rapida, ispirata nella forma e nel ritmo alle commedie sofisticate americane, con un puro copione Almodóvar, che si compiace degli eccessi e avvicina con gioia esuberante i complessi rapporti passionali, che il regista analizzerà in seguito con maggiore profondità e serietà. Il copione è audace, rocambolesco, delirante e kitsch. Almodóvar ha una vera passione per l'universo del fotoromanzo, in questo film portato all'apogeo e meno irriso che esaltato. Labirinto di passioni è un film che gioca al cinema con piacere, e questo piacere viene soprattutto da una certezza: Almodóvar adora raccontare storie. Pedro fa tutto. Soggetto, sceneggiatura, regia. Sceglie personalmente ogni attore senza affidarsi a casting e non sbaglia un colpo. Banderas in particolare, eterosessuale calato senza imbarazzi nei panni di un gay, gli regala un personaggio di un'intensità che nemmeno lui stesso aveva previsto. Non lascia nulla al caso il cineasta mancego. Per esempio, conosce l'importanza delle scelte musicali, che non sono una semplice colonna sonora, ma parti integranti della storia che vuole raccontare. Le canzoni nei miei film fanno parte del copione, hanno la stessa importanza dei dialoghi tra i personaggi e generalmente la canzone madre appare nel momento culminante dei miei film. Si tienes un hondo penar, piensa a me. Si tienes ganas de llorar, piensa a me. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. piensa en mí cuando sufras, cuando llores también, piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Para nada me sirve sin ti. A Destini Incrociati siamo negli anni Ottanta. E una coppia di artisti sta dando vita al rinascimento del cinema spagnolo sull'onda della movida madrilena. Il primo è Pedro Almodóvar, regista manchego che si sta facendo notare per i suoi film colorati, irriverenti, senza tabù sessuali, con storie che hanno per protagonisti travestiti, suore, perversioni e nevrosi. Il secondo è Antonio Banderas, giovane attore di Malaga arrivato nella capitale in cerca di fortuna, che da labirinto di passioni diventa per il suo mentore una vera e propria musa al maschile. Io ero intimidito, a volte mi spaventavo, avevo paura che Pedro mi sopravvalutasse. Cercavo sempre di fare del mio meglio e lui era fantastico. Lavorare con lui è qualcosa di completamente differente da tutto ciò che ho fatto in vita mia, sia prima che dopo essere andato in America. La naturalezza degli attori non è importante per Pedro, lo sono invece i messaggi, che hanno una carica quasi espressionista. Questo è quello che fa di un regista un autore. In America Banderas sbarca dopo molti film che rendono quello con Pedro un vero e proprio sodalizio. Tra questi Matador, dove si parla della complicata vicenda di un uomo che uccide le donne con cui fa l'amore, tranne la sua fidanzata, in un turbine di sesso e religione. Arriva poi La legge del desiderio, melodramma su un amore omosessuale, alleggerito dalla solita ironia almodovariana. Per finire, con Donne sull'orlo di una crisi di nervi, che nel 1988, con un David di Donatello e una nomination all'Oscar, consacra entrambi sulla scena internazionale. La mia vita non ha scopo senza te. Mi vuoi sposare, amore mio? Mille e una notte sono troppo poche per me. Non posso vivere senza di te. Ti adoro, ti voglio, ti desidero. Quella notte nella giungla è stata meravigliosa. Perché non ci risposiamo io e te? Hm? Tu sei la geisha della mia vita, sei Onar. Non voglio il successo se posso avere te. Sono anche disposto ad accettarti come sei. Mm-hmm. Amore mio, sai che vado pazzo per le usanze americane. Sempre a tua disposizione. Ti accetto come sei, bambolina. Il film è grottesco. Un miscuglio perfetto tra riferimenti alti e pop. I telefoni che suonano e vengono lanciati dalla finestra sono memoria dell'esperienza di Pedro come tecnico per la società telefonica, ed è con questa pellicola che Almodóvar incomincia a tessere con profondità i mille risvolti della psiche femminile. Carmen Maura e poi Victoria Abril, Marisa Paredes, Cecilia Roth, fino a Penelope Cruz. Pedro ama tutte le sue donne, che gli ricordano il matriarcato in cui è cresciuto. È molto diverso da un film come Labirinto di passioni. È una commedia sofisticata, molto sentimentale. Qualunque stramberia appare verosimile se implica dei sentimenti. L'emozione sentimentale è sempre il miglior veicolo per raccontare qualunque storia. E l'allegria, ovviamente. La stavo dimenticando. Perché da una commedia di qualunque tipo essa sia, deve traspirare l'allegria. Soy infeliz. Porque sé que no me quieres, ¿para qué más insistir? Vive feliz, mi bien, si el amor que tú me diste para siempre de sentir. Soy infeliz, si por qué tú no me quieres, piensas que yo he de morir. Que me sirvan otro trago, cantinero, yo los pago pa' calmar este sufrir. Vive feliz en tu mundo de ilusiones, no pienses más en tu amor y tus traiciones. Soy infeliz, si porque tú no me quieres, piensas que yo he de morir. Que me sirvan cuatro tragos, cantinero, yo los pago pa' calmar este sufrir. Legami è l'ultimo film che Banderas e Almodóvar girano insieme nel 1990, ormai lanciati entrambi a Hollywood dal successo di Donne sull'orlo di una crisi di nervi. Per Antonio, il cui fascino è così invadente da diventare quasi un handicap per un attore, trovare qualcuno che creda in lui, come ha fatto Pedro, non è cosa facile. Io sono una persona che, in ese sentido, mi mostro un pochito quasi inseguro. Io sono una persona sostanzialmente insicura. E nonostante le conferme che già avevo ricevuto, avevo paura a lavorare con qualcuno che non fosse Pedro. Avevo paura che tutto potesse rompersi. D'altra parte è il mondo stesso a essere fatto di porcellana, e eventualità è la parola chiave. Invece, forse aiutato dal suo fatalismo, e di certo moltissimo dai consigli del suo mentore, sfonda sui grandi schermi americani con pellicole entrate nella storia, come La Casa degli Spiriti, Philadelphia. E poi, per Robert Rodriguez, diventa il mariachi in Desperado e C'era una volta in Messico. Eri in Messico durante il massacro del cartello di Barillo? No. Lì sentì parlare di lui per la prima volta. Era una leggenda. Dicevano che era il messicano più alto che si fosse mai visto. Tutte stronzate. Era 1,75-1,78 al massimo. Non è un record mai più alto di molti di noi. Ma Marquez, quella è un'altra storia. Grazie al cinema incontra anche l'amore. È il 1996 quando Antonio, sul set della commedia Too Much, conosce Melanie Griffith, sex symbol biondo e conturbante degli anni Ottanta. È per lei che Banderas divorzia dalla moglie Annalisa, dando inizio a una relazione che contribuirà a cambiare in parte anche il suo destino a Hollywood, tanto che nel suo debutto come regista con Pazzi in Alabama la vorrà come attrice. Almodovar intanto affina gusto ed estetica, arrivando a un cinema citazionista, di un umorismo inimitabile, popolato sempre da personaggi improbabili ma possibili, borderline, che si accettano nella loro condizione con grande autoironia. Mi chiamano Agrado, perché per tutta la vita ho sempre cercato di rendere la vita gradevole agli altri. Oltre che gradevole, sono molto autentica. Guardate che corpo. Tutto fatto su misura. Occhi a mandorla, 80.000. Naso, 200. Buttate nell'immondizia, perché l'anno dopo me l'hanno ridotto così con un'altra bastonata. Lo so che mi dà personalità, però se l'avessi saputo non me lo toccavo. Continuo. Tette, 2, perché non sono mica un mostro. 70 ciascuna, però le ho già super ammortizzate. Silicone nel... Dove? Labbra, fronte, zigomi, fianchi e culo. Un litro sta sulle 100.000, perciò fate voi il conto perché io l'ho già perso. Limatura della mandibola 75.000, depilazione definitiva con laser, perché le donne vengono dalle scimmie tanto quanto gli uomini, 60.000 a seduta. Dipende da quanta barba una ha, normalmente da una a quattro sedute. Però, se balli il flamenco ce ne vogliono di più, è chiaro. Bene, quello che stavo dicendo è che costa molto essere autentica, signora mia, e in questa cosa non si deve essere tirchie, perché una è più autentica quanto più somiglia all'idea che ha sognato di se stessa. Il monologo del transessuale Agrado, ormai entrato nella storia, è un momento di tutto su mia madre, manifesto di umanità e poesia dall'enorme successo di pubblico e critica, che gli fa conquistare numerosi premi internazionali, tra cui il prestigioso Oscar come miglior film straniero, che gli consegna nel 2000 la sua attrice e amica del cuore, Penelope Cruz. E l'Oscar è para... Pedro! Poi è la volta di Parla con lei, La mala educación, Volver e Gli abbracci spezzati, tutti di enorme impatto che l'hanno reso uno degli autori più importanti del mondo. Tutti e due, Pedro e Antonio, hanno cominciato a Madrid, arrabattandosi per campare. Hanno combattuto insieme attraverso il cinema per dare un'identità nuova a una Spagna per troppo tempo costretta ad abbassare la testa. Hanno giocato, hanno fatto ridere e fatto piangere e sono sbarcati a Hollywood prendendo strade separate. Ma adesso è ora di tornare a casa. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril, un poco lista, un poquitín boba, ir con Madonna en una limusina. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Viví, como Miguel Bosé, pasar de todo y no pasar de moda, bailar contigo el último cuplé y no parar de viajar, del invierno al verano, de Madrid a New York, del abrazo al olvido, dejarte entre tinieblas escuchando un ruido de tacones lejanos. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto. Tener en cada puerto un amante distinto. No gritar qué he hecho yo para merecer esto. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Pepi, como Lucy, como Bon. Venderle al garbo mis secretos de alcoba, ponerme luto por un matador. Yo quiero ser una chica Almodóvar, que a su chico le suplique, átame. No dar el alma, sino a quien me la roba. Desayunar en Tiffany's con él y no permitir que me coman el coco esas chungas movidas de croatas y serbios. Ir por la vida al borde de un ataque de nervios con faldas y a lo loco. Encontrar la salida de este gris laberinto sin pasión ni pecado ni locura ni incesto. Tener en cada puerto un amante distinto. No gritar que he hecho yo para merecer esto. Y difusa escribir mis memorias, apuntarme a cualquier clase de bombardeo, no tener otra fe que la piel ni más ley que la ley del deseo. Encontrar la salida de este gris laberinto sin pasión ni pecado ni locura ni incesto. Tener en cada puerto un amante distinto. No gritar que he hecho yo para merecer esto. Encontrar la salida de este gris laberinto sin pasión ni pecado.